Caccia all'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti. Allora, il programma prevede di avere problemi di spazio, un eterno ritorno e la brevità della vita.